Friuli nel mondo. Friuli nel mondo. Isonzo Canoro. Quarta trasmissione dedicata agli emigrati all'estero. Testo di Chino Ermacora. Partecipano alla trasmissione le corali di Gorizia di Cormons, dirette dal maestro Ugo Spessotti. La corale di Villa Vicentina, diretta dal maestro Secondo Del Bianco. La corale di Grado, diretta dal maestro Felice Olivotto. Canti popolari. Musiche originali di Augusto Cesare Seghizzi. Giovanni Pian. Franco Escher. Acqua friulana. Eppure nessuno fiume fu come questo, così gravido di storia. Nessuno compendiò nel nome che sembra ritenere un cozzo d'armi tanti epici eventi. La leggenda ne sfiora le sorgenti tra il Mangart e il Tricorno, dove un camoscio dalle corna d'oro, ferito da un cacciatore, balza insanguinando le rocce che emettono fiori purpuri del suo passaggio. Ed aleggia sopra l'ondulata conca di Gorizia, dove nelle sue acque azzurre che specchiano un più vasto cielo si abbeverarono le cavalle dell'omerico Diomede, scampato alla distruzione di Troia. Orde migranti s'affacciano sempre a questa porta d'Italia. Gallocarni contenuti da Roma proprio sul fiume dei Ficato, gli Istri e i Taurici, gli Chiapidi e i Liburni, gli Unni e i Longobardi, gli Ungari e i Teutoni, i Turchi e i Francesi, gli austriaci e i russi, ultimi i partigiani della Stella Rossa. Il console Caio Sempronio Tuditano lascia la vita combattendoli al prossimo Timavo. Vitam dedit Timavo. Come 2000 anni dopo, Giovanni Randaccio, il maggiore dei lupi di Toscana, inumato da Gabriele D'Annunzio nel cimitero di Aquileia. Una storia che si ripete da secoli. Da secoli queste acque furono arrossate di sangue. 12 le battaglie combattute tra il maggio del 15 e l'ottobre del 17, delle quali l'Isonzo fu testimone. Pagine di sacrifici sovrumani, sorretti da volontà più dure delle rocce stesse del Carso. Nella sola conquista di Gorizia, 9 agosto 1916, 82.000 le perdite in uomini dei due eserciti in campo. Ci si spiega come la terra isontina sia popolata di croci, da Caporetto ad Oslavia, dal Calvario a Re di Puglia. In quest'ultimo sacrario più di 100.000 salme di noti e ignoti. Vittorio Locchi canta per Santa Gorizia. I nostri morti sognano dentro i tuoi cimiteri, nei tuoi monti e nel tuo piano. E l'Isonzo li piange come avrebbero fatto qui le mamme lontane che sbiancano in silenzio nelle case deserte. E al giovane poeta che doveva inabissarsi nel mare avevano già risposto con l'offerta della pensosa giovinezza Renato Serra e Scipio Slataper, mentre un altro allora sconosciuto, Giuseppe Ungaretti, annotava sopra il suo zaino: l'Isonzo scorrendo mi levigava come un suo sasso. Socia, nome sloveno del latino Esonzius, dell'italico Isonzo. Le fienaiole sui monti seguono con lo sguardo chiaro e col canto soave il suo rapido corso, ingrossato dai nevai che alimentano l'Idria e la Coritenza. Ne accompagnano il lento fluire lungo le sponde folte di acace e di rosignoli, presso i ponti che allacciano le opposte rive, attraverso i prati odorosi di fieni, dove il vipacco, il torre e il natisone gli rendono tributo di nuove linfe, le villotte dei contadini friulani. Villa Gocce di rugiada è il titolo di una fiorita di tali villotte che, diffondendosi sul fiume, colgono il profumo della primavera, l'ebbrezza dell'autunno, la tenerezza di un'alba d'amore.